Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fuck. Do. Fuck. Fuck. To do. www.astabene.com. Bene sì, www.astarbene.com come tutte le volte vuol dire che è riiniziato Battito Madre, questo nostro talk show mensile in cui appunto ci troviamo tutti i mesi qui a Exalge, io e Coli in diretta a parlare delle belle musiche folk, tradizionali, popolari di tutto il mondo. Bentornati e bentornate a voi se siete all'ascolto, bentornati e bentornate a voi che state cominciando a popolare questo spazio che noi ormai chiamiamo casa da un po' di tempo. E bentornato anche a mio fratello gemello Coli, sempre qui alla mia sinistra nelle sue duties di regia e di audio e di tecnica, oltre che ovviamente di autore, speaker e il miglior compagno di viaggio che Piero, che il qui presente Piero potesse desiderare. Di più, Coli. Non sono abbastanza. Infatti, lo so che non ti bastano. Ciao, mai. Ciao Piero. Ciao ragazzi. Bene, allora. Prima tutte le cose consuete, cioè un blessing generale a Exalge, un blessing generale ad Astarbene, su cui questa sera non siamo in diretta perché c'è lo storico, il leggendario Reggae Radio Show, il primo talk show radiofonico di Astarbene, e un blessing generale a tutta la community di Battito Madre, a noi a cui piacciono le musiche folk e tradizionali. Questo lunedì, come tutti i lunedì che precedono il talk show, siamo stati ospiti di RBL Torino a fare la nostra solita ora di sole musiche e pochissime parole. Sarebbe recuperabile in podcast sulla pagina di Battito Madre di RBL, ma non è ancora stato caricato, ma insomma verrà caricato molto a molto breve. Mentre domani, sabato 20 aprile, è il dodicesimo compleanno di Radio Banda Larga Torino, troverete anche Piero e Coli a rappresentare Battito Madre sul bellissimo prato dell'imbarchino del Valentino dalle 3 alle 4, lì c'è festa da mezzogiorno, insomma. Se siete di zona, ma anche se non lo siete, passate, noi vi aspettiamo, anche perché poi c'è festa anche la sera dalle 21 al bunker fino a notte fonda, insomma ce n'è davvero per tutti, per festeggiare tutti insieme 12 anni di community radio di RBL Torino. Ebbene, noi siamo qui a parlare di musica, a parlare di musiche tradizionali e popolari di un certo preciso luogo del mondo, che oggi questa puntata l'abbiamo chiamata Mediterranea, un po' per essere volontariamente vaghi, un po' anche per lanciare un messaggio, perché non parliamo del Mediterraneo in generale, ma di una certa parte del Mediterraneo, cioè quella tendenzialmente est mediterraneo e soprattutto di cultura araba. Allora, io direi che andiamo subito a lanciare il primo pezzo, che è un pezzo che ci siamo suonati lunedì in RBL. Io e Coli facciamo le nostre ricerche separate quando succede questo, e poi ci troviamo e le mettiamo insieme per fare il set, e questa è la prima volta che è successo, siamo arrivati con una traccia in comune e quindi era abbastanza un segnale, che era questa, che si chiama Maktub di Aziz Samawi con la University of Gnawa. Andiamo a introdurre quello che sarà anche uno dei temi musicali di questa sera. Arriva Aziz Samawi con questa musica tradizionale marocchina che si chiama Gnawa, Maktub. فاطمة فوق الحجرة جالسة تبكي كان صرخها في الأسرة ولم يعد فلمن تشكي تهدم البيت انكسرا هوى ضحيتها الفتكي بين اليمنة واليسرى رواية القصف تحكي مكتوب مكتوب وما لها تمطر جمرا ما للربها العطرا أم في الأرض مختبرا ما دنبينا الأخرى وما العبرة فيما جرى ما للنور تفجرا وما له ولما هجرا مكتوب مكتوب ولا عمد جاو جنوس مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس مكتوب مكتوب ولا عمد جاو جنوس مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس رحل الغروب على بعض الشعوب خصامات القلوب بماد القروب والطيش والهروب فاتنا فوق الحجر جالسة تبكي تبكي مكتوب مكتوب ولا عمد جاو جنوس Samawi è la University of Nawa, che è anche il titolo del disco in cui ho inserito questo pezzo, che si chiama Maktub. Il pezzo di copertina con cui abbiamo deciso di iniziare questa puntata di Battito Madre, in cui tratteremo di musiche sì mediterranee, ma non europee. Ed è quasi completamente esatto questa cosa che ho appena detto. Bene, l'Ognawa, ne parleremo dopo, ma è questa musica tradizionale che proviene molto probabilmente dall'Africa occidentale, ma è diventata adesso è molto molto diffusa in Marocco. Ebbene, abbiamo detto, c'è già questo punto geografico da fare, no? Come a volte succede a noi, perché forse è vero che siamo abituati spesso a pensare al Mediterraneo solo come le sponde di qua, dalla nostra parte, cioè Spagna, Francia, Italia e poco altro, ma invece secondo me è molto bello se proviamo ad immaginare il Mediterraneo come una geografia diversa, non come una geografia che è divisa tra continenti, cioè tra Europa e Africa, ma come un luogo a sé in cui e forse facendo così ci potremo rendere conto che spesso abbiamo molto più da condividere con quelle popolazioni dell'altra sponda del Mediterraneo che con queste qui europee che non sono divise da noi da un mare, ecco. Però per fare questo tipo di operazione forse è più comodo iniziare da una di queste, da una cultura, da un luogo che noi percepiamo più vicino, che è europeo ma comunque molto ibrido, e tra l'altro una cultura musicale di cui noi abbiamo già parlato durante la pilota di questa stagione di Battito Madre, e appunto questo luogo che noi percepiamo come vicino ma molto ibrido, perché alla fine è un passaggio verso l'Oriente, è la Grecia, e questa cultura musicale è il rebetico. E, insomma, anche per la storia del rebetico, ovviamente, come si parla di musica e di canzone popolare, è una storia che prende forma nel XX secolo, andando ad informarsi di tradizioni precedenti. Ora leggiamo abbastanza rapidamente, insomma, parliamo del post prima guerra mondiale, dove noi abbiamo studiato nei libri di storia le conseguenze della guerra sui paesi, diciamo gli stati centrali, oppure l'Italia, oppure la Gran Bretagna, ma in realtà ovviamente tantissimi altri paesi europei sono stati distrutti, hanno subito le conseguenze di questa guerra molto, vabbè, insomma, distruttiva, tra cui anche la Grecia. Ora, dopo la prima guerra mondiale si è dissolto l'impero ottomano, è quasi l'altro ieri, sembra, cioè sembra preistoria l'impero ottomano, no, però sostanzialmente è l'altro ieri. E quindi tutti questi luoghi che erano occupati prima da questo grande potere accentratore, no? Era ancora un impero, si sono improvvisamente trovati con delle caratteristiche, no? Molto locali, molto appunto centrate sul proprio luogo di origine e di vita. Sì, più che altro la cosa importante è che l'impero ottomano era stato, come hai detto tu, caratterizzato da popoli e culture veramente diverse che per tantissimi anni sono riuscite a convivere l'una con l'altra. E come hai detto tu, dopo la dissoluzione sono state le potenze dell'Europa centrale a prendere decisioni sicuramente sbagliate e coloniali e a creare ovviamente dei conflitti. Per quanto riguarda la Grecia, che stiamo prendendo in esame, che era indipendente, è stata indipendente, anzi ha raggiunto l'indipendenza molto presto, nel 1830, loro oltretutto sono riusciti, cioè la storia del rebetico nasce quando la Grecia vuole attuare una sorta di politica di espansione, no? E quindi riconquistare i popoli, i territori, scusatemi, della parte più a sud, quindi verso la Turchia. Ah certo, questo succede molto prima, la prima sì, guerra molto mondiale, prima, certo. E con ciò succede una cosa abbastanza importante. Prima di tutto, in questo tentativo la Grecia fallisce miseramente, perché per problemi di politica interna nasce una monarchia, gli stati alleati si tirano indietro. E quindi questo progetto, che se non pronuncio in maniera errata la Megali Idea, credo che sia molto giusto. Questo progetto fallisce e le truppe che erano arrivate fino a Smirne si ritrovano in una... Abbandonate completamente. Quindi Smirne praticamente collassa e si ritrovano a dover fare una ritirata. Questo porta poco dopo a quello che è la ricongiungimento dei popoli. Forse non è esattamente il termine adatto. No, allora la parola con cui è passata alla storia è questa, cioè la catastrofe. Che però, esatto, porta a una cosa che tocca più il nostro argomento, ovvero quella del movimento, lo scambio etnico che avviene dopo a questa catastrofe, ovvero quasi mezzo milione di ortodossi che si trovavano nei popoli greci se ne devono andare in Turchia. Scusatemi, i musulmani, non gli ortodossi, i musulmani che si trovano nei popoli della Grecia devono migrare in Turchia, e viceversa i popoli ortodossi che si trovavano in Turchia devono raggiungere le terre greche. E parliamo in totale di movimento di quasi 1,5 milioni di persone, per cui davvero una migrazione in un senso e in un altro molto molto importante. Sì, ed erano comunque erano popoli prosperosi, erano popoli acculturati da entrambe le parti. Se dobbiamo andare in esame sulla Grecia, ci rendiamo conto che tantissimi di questi popoli che sono stati costretti a emigrare erano persone che frequentavano i caffè al Man, erano letterati, erano musicisti, e che da un giorno all'altro però si ritrovano senza una casa e a doversi arrangiare. Questo fa sì che la loro cultura, che comunque apparteneva molto di più, non parlavano neanche il greco, viene esportata in terra greca, e in questa miseria e povertà, soprattutto poi che si concentra nel nei porti e in particolare nel porto di Atene, ci ricorda tra l'altro le vicende del Fado di cui abbiamo parlato due mesi fa, insomma alla fine vedi come le storie si somigliano molto. Certo, e in questo ambiente nasce una sorta di malavita, sì, anzi no, una vera e propria malavita che come ideali ha, cioè idee non sbagliate, però ideali che sono di vita di strada, che sono rubare, il gioco d'azzardo, la droga. E si creano proprio delle, vengono riconosciuti con dei nomi che sono i Rebez, che dal greco significa fogna, e i Manges venivano chiamati così per questa usanza che avevano nel tenere una manica della giacca slacciata, scoperta, in modo tale che potessero tirare fuori il coltello più velocemente. Una la tenevano allungata fino ai polsi e l'altra fatta su fino al gomito. No, proprio non la inserivano neanche. Come mettere la giacca a metà. Wow. È tutto molto bello. Tutto molto bello. Soprattutto poi, come potete immaginare, i testi delle canzoni che venivano creati erano esattamente su questi temi qua. Cosa che poi mi ha fatto ricordare un po' cioè, se dobbiamo attuarla ai giorni nostri, l'hip hop, la trap, parlano esattamente delle stesse cose: carcere, donne, malavita, gioco d'azzardo, e chi ne ha più ne metta. Beh, dopo questo racconto meraviglioso, io direi che andiamo a sentirci un altro pezzo di Rebetico, perché un altro l'avevamo sentito a fine novembre, appunto nella pilota di questa seconda stagione, in questo ambiente culturale di persone di cultura, artisti, letterati, musicisti, che frequentavano la malavita dei porti greci e quindi hanno dato origine a questo genere musicale, questa cultura che noi oggi chiamiamo e che già da allora si chiamava Rebetico. Noi andiamo a sentire questo pezzo che si chiama Pino Caimetho di Babis Certos nel Rebetico. Questo è sempre Battito Madre, il quarto episodio della seconda stagione, in diretta da Exalge. Και το τέρτι μου, ο χαμάνα στο μπουζούκι μου ξεχνώ. Και το τέρτι μου, ο χαμάνα στο μπουζούκι μου ξεσπώ. Χάσικλης και Μερακλής, ο Χαμάνα Χάσικλης και Μερακλής. Γιατί όλο λες, ο Χαμάνα κούκλα μου πως δε με θες. Γιατί όλο λες, ο Χαμάνα κούκλα μου πως δε με θες. Σου, ο Χαμάνα και τα κορδελάκια σου. Με του μπαράνε, ο Χαμάνα πως με κογιοναράνε. Με του μπαράνε, ο Χαμάνα πως με κογιοναράνε. Μου τα φέρες, ο Χαμάνα και μου την κατάφερες, ο Χαμάνα και μου την κατάφερες. Πως μου το σκάσες, ο Χαμάνα με έναν μαγκά το στρίψες. Πως μου το σκάσες, ο Χαμάνα με το μαγκά το πρίζες. Dino Kai Metho dell'uomo che si chiama Bobby Certos, inserito nel disco che si chiama, provo a dirlo, ATMT, no, non è neanche così difficile, questo bellissimo pezzo di Rebetico che abbiamo scelto di girarci questa sera qui a Battito Madre in diretta su Radio Exalge, live da Exalge, in questo episodio che chiamiamo Mediterranea, in cui appunto andiamo a sentire un po' di esempi di musiche folcloristiche e popolari di certi popoli del Mediterraneo a cui che forse non percepiamo come esattamente vicini, e questo era l'esempio greco, appunto del Rebetico. Abbiamo parlato molto della Turchia anche adesso introducendo il Rebetico, e quindi è bello anche avvicinarsi, cioè, o meglio avvicinarsi, spostarsi un po' verso est, facciamo questo percorso che poi finirà lì esattamente in Medio Oriente, e noi ci avviciniamo, andiamo un po' verso est rispetto alla Grecia, andiamo adesso a parlare di un pochino di musica popolare e tradizionale turca. E visto che noi l'abbiamo ribadito tante volte, qui a Battito Madre ci piace molto mettere l'accento sulla musica accompagnata ai movimenti del corpo. E per cui tra tutte le cose di cui potevamo parlare abbiamo scelto di parlare della danza del ventre turca, che va bene, sì, lo sappiamo, non ha origini turche direttamente, ma anzi è emanazione della tradizione musicale egiziana. Però, come poi succede molto spesso, ha le proprie declinazioni nelle varie tradizioni popolari più nazionali, come succede in Turchia. E la storia della danza del ventre, che in realtà in Turchia non chiamano danza del ventre, ma chiamano danza orientale, oppure orientale, semplicemente. Ciao Zone, appena arrivato, ti mando un abbraccio in diretta su Radio Exalge e ti dico che ti vogliamo molto bene. In Turchia, dicevo, la danza del ventre si chiama semplicemente danza orientale, proprio come memoria culturale di questa danza, che proviene alla fine orientale nel senso dall'impero ottomano, dalla Persia, che è quello che adesso è l'Iran, anche se poi abbiamo detto appunto, va bene, che la danza del ventre viene dall'Egitto. Ebbene, la storia è abbastanza questa, cioè la danza del ventre era un tipo di intrattenimento, o meglio era l'intrattenimento di cui potevano disporre le centinaia di donne, decine o centinaia di donne che facevano parte di un harem di qualche sultano. Appunto erano tantissime queste donne, e l'harem era proprio una zona della casa tradizionale ottomana, ed è l'area in cui i maschi che non appartengono alla famiglia non possono entrare, a cui non possono accedere. Dunque questa danza di intrattenimento delle donne che componevano l'harem del sultano poteva essere eseguita solo da donne, quindi erano queste danzatrici, dette anche raccase, che entravano nell'harem del sultano per intrattenere le donne che lo componevano. Il sultano stesso. E il sultano stesso, certo, che non se lo poteva perdere. Per cui anche qui c'è una curiosità, perché la danza del ventre è la danza delle donne per le donne. Poi ovviamente non stiamo parlando purtroppo di donne libere, ma forse con diversi gradi di prigionia, però se vogliamo questa è un po' la curiosità della danza del ventre, che come ha fatto a uscire dagli harem? Semplicemente, come succede molto spesso, no? Con la secolarizzazione delle tradizioni, i performer, i danzatori di strada che avevano conosciuto questa danza chissà in quali modi, l'hanno portata nelle strade e quindi l'hanno fatta conoscere al pubblico largo. Danzatori uomini, tra l'altro. Esatto, danzatori uomini, che appunto si discosta così dalla tradizione, no? Perché la danza era principalmente femminile, invece questi raccas è la parola al maschile, a differenza delle raccase, che insomma la traduzione è molto letterale, danzatore e danzatrice. Hanno portato la danza del ventre fuori dagli harem dei sultani. E una cosa interessante che possiamo dire sulla danza del ventre particolare turca è che c'è una forte influenza che non viene dall'est, ma viene, se vuoi, dall'ovest in qualche modo, comunque è più autoctona, che è quello della popolazione rom, popolazione di origine nomade, molto diffusa in Turchia, che ha messo uno zampino molto forte sulle evoluzioni della danza del ventre in Turchia. Cioè, ad esempio, c'è questa che si chiamava, perdonami, adesso lo trovo. Lo Yun Avasi, che è una canzone da ballo, una canzone da ballo di tradizione turca, anche se in realtà si differenzia molto da quello che significava in origine, perché questo è un termine che fa parte della musica classica turca. Insomma, vabbè, provo a farla molto breve. Che cosa porta la tradizione rom nella danza del ventre turca? Questa vivacità molto più accentuata. E in particolare un ritmo molto interessante che è di 9 ottavi, che io non proverò adesso a riprodurre con le mani perché ho paura di fare una figuraccia, però è molto interessante. Un altro particolare della danza del ventre turca è quello del floor work, insomma, esistono dei movimenti nella danza del ventre che si eseguono letteralmente da terra, che sono un po' più allusivi, se vuoi, no, Coli, del resto della danza, e che quindi sono stati banditi, ad esempio, in Egitto e in molti stati fortemente musulmani dalla metà del XX secolo. In Turchia non è così, e quindi la danza del ventre turca conserva degli elementi di danza da terra. Bene, un sunto abbastanza breve di quello che è la tradizione della danza del ventre in Turchia, per cui, di nuovo, movimento del corpo accompagnato dalla musica, musica accompagnata dal movimento del corpo, che era proprietà in questo caso di una certa classe sociale molto alta, cioè il sultano, e quella un po' più bassa delle serve del sultano, tra danzatrici e, tra virgolette, mogli, e che poi invece con la secolarizzazione, con l'avvento della tecnica, il XX secolo e tutto ciò che noi già sappiamo, entra nelle strade e quindi a far parte per sempre del patrimonio culturale popolare turco. Andiamo a sentirci. Che cosa? Cosa andiamo a sentirci, Gospa? Andiamo a sentirci un... Allora, come dicevi tu, un altro... momento di massima espansione. Notavamo mentre facevamo la playlist del ballo della belly dance, quindi della danza del ventre, sono gli anni 70, in cui probabilmente un po' per le produzioni cinematografiche, un po' per questo fascino dell'Oriente, ma comunque l'estetica ha avuto un grandissimo boom negli stati occidentali. Tra l'altro, se pensiamo, scusami velocemente, se pensiamo al cinema, cioè a livello di immagine, forse una delle prime immagini che abbiamo sono queste ballerine che muovono molto le mani e le dita, e infatti i cimbali da dita sono uno strumento molto particolare nella danza del ventre turca, tanto che c'è una scuola molto puritana di pensiero turca sulla danza del ventre, che dice che se non sai suonare i cimbali da dita non sei davvero un danzatore. Chiusa parentesi. Niente, basta. Se ci ascoltiamo Dala di Hani Melanna. Sentiamo degli anni 70, degli anni come 70, dicevamo prima. Molto molto divertente. Andiamo in Turchia e no, noi non proveremo a ballare, ma se vuole qualcuno qui a Exalge e dopo puoi provare a fare la danza del ventre, io ti guardo. Thank you. Ebbene, questo era il bellissimo, tra l'altro lo sto guardando, meraviglioso signor Anime Hanna con la sua Dalà inserita, del pezzo abbiamo detto Coli del 79, inserito in un disco che si chiama The Miracles of the Seven Dances. C'è molto tra l'altro questa simbologia, no, numerologica del 7, l'abbiamo trovato non solo in questo disco. No, è nella cultura Gnawa. Nella cultura Gnawa, di cui tra l'altro stiamo per andare a parlare, perché sì, abbiamo fatto un passetto verso est, nella sponda, chiamiamola nord, chiamiamola superiore, del Mediterraneo. Adesso andiamo nella sponda inferiore, quella sud, però partiamo da ovest, perché partiamo dalla Gnawa, di cui abbiamo detto due cose rapidamente nel pezzo di apertura di Addis Samawi, che è appunto una musica, è una cultura che appartiene molto all'Africa nord-occidentale, ma che adesso in realtà è diventata molto molto tipica del Marocco. Ebbene, la musica Gnawa è un insieme di canti e ritmi religiosi, e il suo patrimonio combina la poesia, quella tradizionale, rituale, della memoria culturale, con la musica e la danza tradizionali. È molto spesso appunto rituale e viene eseguita durante le lila, cioè notti di celebrazione di tutte le comunità dedicate alla preghiera e alla guarigione, che sono guidate da questa figura che si chiama Malem Gnawa, che si può tradurre come maestro musicista, che comanda un gruppo di musicisti, perché insomma questa è una musica, musicisti e danzatori. Perché questa è una musica che insomma, abbiamo ascoltato e ascolteremo, si basa molto su dinamiche di chiamata e risposta, per cui in questo è davvero molto molto africana, no? Anche se magari sono chiamate e risposte, ripetizioni di frasi relativamente lunghe, per cui insomma vabbè, qua c'è un mix un po' di cose, no? Di West Africa però più equatoriale, e invece West Africa più appunto magrebina, mediterranea, marocchina. Esatto, tu hai citato West Africa perché appunto la tradizione vuole che un sultano in particolare, di cui non pronuncio neanche il nome. Ci proviamo, guarda, alla fine non è così difficile, si chiama Ismail Ibn Sharif. Eccolo. Che ha regnato tra l'altro per quasi 60 anni, tra il 1600 e il 1700. Voleva, o meglio, fece in modo che la sua guardia reale, chiamata la Guardia Nera, giusto? Sì. O Abid al-Bukhari. O Abid al-Bukhari, ovviamente. Fossero di tradizione nera, westafricana. E il motivo di ciò e la lealtà che poi è riuscito ad avere e ottenere con questi schiavi, che però in un modo o nell'altro gli erano molto leali e devoti, era che oltre al fatto a garantire istruzione, case, cibo e quant'altro a queste tribù, quindi comunque persone deportate dai loro luoghi d'origine. Sì, tra l'altro leggiamo che questo sultano aveva fatto costruire delle colonie apposite per portarci le famiglie di schiavi che poi sarebbero state destinate alla guerra, sì. Insomma, a diventare soldati della Guardia Nera. Era proprio un ghetto quasi. Sì, nei momenti di massima... numeri massimi che ha toccato questo esercito si contano 150.000 soldati, diciamo. E il motivo di ciò e del perché non utilizzasse questo sultano persone e soldati provenienti dalle sue aree limitrofe era che riusciva, a differenza delle persone del nord del Nord Africa, queste persone invece più localizzate nel Centro Africa non avevano un senso di appartenenza così grande come le tribù invece che appunto vivevano e che ovviamente vivevano da quasi millenni i territori del Nord Africa. E quindi sì, non avendo appunto affiliazioni tribali, gli schiavi venivano considerati ovviamente più leali di berberi, marocchini. Esatto. Tra l'altro, ti ricorda un po' la storia adesso, forse perché ho rivisto Game of Thrones da poco, però è abbastanza la storia degli, si chiamano Unsullied mi pare, no? Questi soldati schiavi a questi, che sono stati privati dell'identità, anche castrati, che non servono a nient'altro se non a combattere. E tra l'altro sono anche nella serie, nei libri se ne parla proprio come i più fedeli di tutti. Scusa, piccolo inciso. Beh, ci sta. Ed è per questo motivo, quindi con l'importazione o esportazione di persone, che alla fine la musica prende dei connotati molto più africani, molto più tribali, come dicevi tu, strumenti diversi da quelli che venivano impiegati normalmente nei generi che riguardavano il Nord Africa, e da cui poi è nata questa musica, la musica Gnawa. E questo per la parte musicale. Per la parte spirituale invece c'è quest'altra curiosità, nel senso che questo sultano, cioè perché poi questa musica è davvero così indissolubilmente legata ad aspetti spirituali, religiosi e rituali, perché il sultano Ismail pare che avrebbe dichiarato ai propri soldati della Guardia Nera: voi e io siamo ora servitori della sunna del profeta Maometto. La sunna è sostanzialmente il codice etico e morale della tradizione islamica. Cioè il sultano era davvero davvero molto come si può dire, investito, credeva davvero tanto nel proprio ruolo di difensore della religione musulmana, tanto che ha fatto sostanzialmente faceva un lavaggio del cervello ai propri soldati della Guardia Nera. Ci sono fonti storiche che dicono addirittura che lui regalava una copia di questo libro che si chiama dell'autore, no, il libro si chiama Sahih al-Bukhari di Muhammad al-Bukhari. È per questo che poi la guardia si è chiamata Abid al-Bukhari, cioè gli schiavi di al-Bukhari, perché il sultano regalava una copia di questi discorsi sostanzialmente di Maometto compilati da questo al-Bukhari, e anzi li invitava a portarla con sé in battaglia, ma soprattutto nel momento in cui giuravano fedeltà al sultano, giuravano con la mano sulla copia di questo libro di discorsi del profeta Maometto. Per cui questa è l'origine della musica Gnawa in termini tradizionali. Poi ovviamente negli ultimi anni si è secolarizzata anche questa, si è modernizzata, è diventata più profana. E tra l'altro abbiamo scoperto questo festival meraviglioso, che forse è un po' tardi al momento per andarci, Coli, ma noi non abbiamo ancora deciso definitivamente che non ci andremo, che si tiene, correggimi se sbaglio, tra l'altro quest'anno 25esima edizione, si tiene a Essaouira tra il 27 e il 29 di giugno, vero? È corretto. Ed è il Gnawa World Music Festival. Sì, cioè, perché probabilmente anche un po' dal modo in cui è nato questo genere musicale, è andato anche poi a fondersi in maniera molto consolidata con altri generi, soprattutto con jazz, musica elettronica, fino ad arrivare anche all'hip hop. Quindi comunque oggi sentiamo, anche magari pur non sapendolo, certo, tanta di questa musica che invece ha radici profondissime nell'Africa. Sì, è diventata world music a tutti gli effetti, perché non solo come musica tradizionale di un certo posto, ma ormai è andata a mischiarsi davvero con tantissime cose. Appunto, hai detto hip hop, io se vuoi ti aggiungo reggae, hai detto il jazz, giustissimo. E per cui noi vi invitiamo ad andare a Essaouira durante questo festival, forse troverete Mekoli. Gratuito, oltretutto, il festival. Dato molto importante. E se non ci trovate quest'anno, ci trovate sicuramente l'anno prossimo, perché mi sa che davvero andiamo. E nel frattempo noi ci ascoltiamo questo pezzo Gnawa che si chiama Yabani Insane di Nas El Ghiwane, e direttamente dal Marocco. Il disco si chiama Disc Door, l'album. E niente, andiamo di Gnawa qui a Exalge, dove siamo in diretta e live. Vi aspettiamo, questa sera cena palestinese, ma insomma ne parliamo adesso. Yabani Insane. We'll be right back. Yabani Insane dell'uomo che si chiama Nas El Ghiwane, mentre lo lasciamo scorrere un po' in sottofondo per un altro minuto e mezzo. No, non era Nas, Edo, ma è un artista. Gnawa, per favore, un po' di rispetto per le belle musiche che ti stiamo facendo sentire, soprattutto per gli artisti. Mentre appunto abbiamo appena parlato della Gnawa, questa cultura musicale soprattutto marocchina, e proseguiamo il nostro viaggio un po' verso Oriente, perché stiamo chiaramente, no, chiudendo un po' verso il Medio Oriente, perché questa sera, forse non l'abbiamo ancora detto, Cori qui in diretta, ma insomma c'è una ricchissima cena palestinese che ci e vi aspetta qui a Ex Alge, siete ancora in tempo. Pericolosi, per... pericolosi all'ascolto. Esatto, pericolosi e regolose. E quindi proseguiamo il nostro viaggio un po' verso est, ci spostiamo dal Marocco all'Algeria, dove di una musica, se bisogna parlare di una musica, bisogna, a una musica bisogna pensare, che è quella che si chiama Rai. Ebbene, al di là del significato della parola, che in algerino significa idea, ma soprattutto opinione, cioè una cosa molto personale, appunto a questa forma di musica popolare algerina che trova la propria origine negli anni 20 del Novecento. Curiosità è che ad esempio i cantanti di Rai sono chiamati, si chiamano Sheb oppure Shabab, che è un po' un senso più giovane, in contrapposizione al nome Sheikh, che vuol dire vecchio, che era il nome dato che davano ai cantanti Shabi, che era insomma il genere tradizionale precedente. Ebbene, finché nel frattempo Curi si è alzato in piedi perché sente molto il calore di questi, sì, di questi luoghi mediterranei. E il mal di schiena. E il mal di schiena, insomma, questa è la radio, dai, noi potremmo essere... va bene, mal di schiena, sta in piedi allora Curi. dicevo, alla fine la storia del Rai è molto simile a quella del rebetico, se vuoi, è simile a quella del fado che abbiamo sentito un paio di mesi fa. Perché si sviluppa in una città portuale che si chiama Oran, in italiano si traduce ovviamente con Orano. Ed è una musica, questo Rai, che proprio dall'inizio si è messo proprio in modo consapevole in contrasto con le consuetudini, le tradizioni sia artistiche ma anche sociali dell'Algeria dell'epoca. E quindi target audience, la chiameremmo oggi, erano i giovani che volevano modernizzare e secolarizzare i valori e le tradizioni algerine, che appunto che erano ovviamente musulmane, islamiche. È una musica che chiede molto a tamburi e a melodie ovviamente tradizionali algerine, insomma, però a una certa, dopo, quando si è sviluppato, ovviamente si è fuso anche con certi suoni elettrici, elettronici occidentali, prima di arrivare alla fama come world music alla fine degli anni 80. Ovviamente appunto l'Algeria era una colonia francese, e negli anni, anche qui immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, questa città di Oran, che in Algeria chiamano piccola Parigi, era come era stato il Pireo ad Atene, come era il porto di Lisbona, un mix di culture diversissime, vita notturna, cabaret, era proprio il luogo in cui si andava, il porto di Oran, per cercare il divertimento, quello vero, quello che ci piace a noi. Ed è proprio da questo ambiente qui, sostanzialmente, che emerge questo gruppo sociale di artisti, uomini e donne, che anche questa è, se vogliamo, no, un'innovazione, un passo avanti, che si chiamavano rispettivamente Shouk e Sheikat, che quindi appunto rifiutavano la poesia tradizionale algerina, ma volevano portare, chiamiamola occidentalizzazione, perché alla fine poi è quello che era. Di nuovo accompagnati da tamburi e di ceramica e flauti, cambiavano anche i temi, no, della musica che si ascoltava in queste città, in questa città soprattutto, Oran, cioè dai temi classici della canzone tradizionale islamica musulmana, che sono molto religiosi, molto spirituali, sono molto ad esempio legati alle festività, sono canzoni per i matrimoni, canzoni per quando inizia il Ramadan, canzoni per quando si spezza il digiuno del Ramadan, insomma E invece questo gruppo di artisti ha cambiato un po' le carte in tavola e parlava di temi di cui noi abbiamo, di cui noi continuiamo a parlare a Battito Madre, come era stato per il blues, come era stato di nuovo per il fado, come era stato per il rebetico. Hanno cominciato a parlare e a cantare delle avversità della vita urbana in un linguaggio che era relatable, in un linguaggio che i loro coetanei, che vivevano le stesse cose, potevano capire immediatamente. Ebbene, questo è il RAI, che vuol dire appunto opinione oppure consiglio. La musica si chiama così perché gli artisti, i cantanti e le cantanti di RAI usano proprio intercalare la propria melodia, il proprio cantare e con l'esclamazione della parola RAI, cioè proprio... È come dire, non so quale potrebbe essere l'equivalente, no, ma è come dire, questa è una mia opinione personale, io ti sto dicendo qualcosa in cui io credo. Rap, volendo sì, probabilmente sì, potrebbe, non so. No, è un bel paragone, forse non in senso semantico, ma in senso culturale e pratico ha molto, molto senso. E quindi insomma è proprio questa, l'immagine del RAI è questa, immediatamente dirompente, no? Che spezza con la tradizione. E, l'Algeria ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia nel 1962, per cui relativamente tardi, no? E c'è ad esempio l'ultima cosa che mi piace dire sul RAI a proposito di questa fama, di questa nomea, di questa immagine molto... appunto, possiamo dirlo, rivoluzionaria. C'è questo episodio del 1988 in cui studenti e giovani algerini si riversano nelle strade delle città principali dell'Algeria per protestare contro violenza dello Stato, costo alto degli alimenti di base e per sostenere l'esercito popolare algerino, che era la forza di liberazione. Ebbene, il presidente all'epoca, Shadli Ben Jedid si chiama, è stato in carica dal 79 al 91, vabbè, è stato rapidissimo a incolpare questa rivolta ai messaggi del RAI, agli artisti RAI, e, una rivolta che ha causato la morte di 500 persone civili nell'ottobre del 1988. Ovviamente tutti gli artisti e la comunità musicale e culturale del RAI è stata molto rapida altrettanto a dire: guardate che noi con questa roba non c'entriamo niente, o meglio, non siamo stati partecipanti attivi a questa cosa. Ma in realtà il danno, tra virgolette, perché è una cosa che a noi piace, perché non è un danno, era già stato fatto, perché molti di questi rivoltosi, di queste persone, uomini e donne che animarono queste sommosse, cantavano, o meglio proprio marciavano al suono, alle parole di una canzone di Cheb Khaled, uno degli artisti RAI più in vista dell'epoca, che si chiama il pezzo El Harba Wine, cioè la traduzione è Fuggire ma dove, di cui leggo un brevissimo estratto del testo che dice: dove è finita la gioventù, dove sono i coraggiosi, i ricchi si rimpinzano, i poveri si ammazzano di lavoro, i ciarlatani mostrano il loro vero volto, si può sempre piangere o lamentarsi o fuggire, ma dove? E quindi direi che su queste parole di Cheb Khaled del RAI andiamo a sentire questo stesso pezzo che veniva cantato per le strade dell'Algeria nell'ottobre dell'88 durante le rivolte. Questo è sempre Battito Madre, live and direct from Ex-Alge. I'm Cheb Khaled, anche soprannominato The King of Rai, con questo pezzo che si chiama L'Arba Wine, che di nuovo, ripeto, risuonava nelle strade di Algeri, Oran e le principali città algerine in momenti rivoltosi nell'ottobre del 1900. 88, mentre mio buon Coli, noi proseguiamo questo nostro viaggio che si va a chiudere sul Medio Oriente, in particolare sulla Palestina, perché poi appunto c'è una palestinese, ci sono i ragazzi, i nostri amici Baba e Ganoush, con cui poi faremo due chiacchiere, poi ci suoneranno dei bellissimi dischi, e per cui proseguiamo un po' verso Oriente, per cui dall'Algeria passiamo all'Egitto, in cui di nuovo si può parlare di una persona, visto che noi dobbiamo essere brevi e dobbiamo dire le cose più... come posso dire, che saltano agli occhi, più mi manca la parola, Coli, però vabbè, non c'è... rappresentative. E allora parliamo di un Kultum, che è questa donna che è stata soprannominata la voce dell'Egitto, che è autrice di quello che è tuttora l'inno nazionale egiziano, ed è, insomma, ha raggiunto la fama non solo nazionale ma proprio in tutto il mondo arabo. Credo che non esistano persone che non conoscono Umm Kulthum. È stata soprannominata anche la quarta piramide d'Egitto. Ciao Fede. E tra l'altro leggo ad esempio nel 2023 Rolling Stone ha inserito Umm Kulthum al numero 61 nella lista delle 200 cantanti più grandi di tutti i tempi. Insomma, un pezzo molto grosso. Sì. Nel 34 ha cantato per la trasmissione inaugurale di Radio Cairo, che è l'emittente di Stato, nella quale ha tenuto un concerto settimanale, mensile, ogni primo giovedì del mese per 40 anni, cioè robe incredibili. Nel 44 è stata decorata da Re Farouk I d'Egitto con il più alto livello di ordini, che si chiama Nishan el Kamal, che si possono dare alle donne. Che in realtà fino ad allora era riservata a membri della famiglia reale e a politici. Una nota di colore, se vogliamo, è che la famiglia reale però si oppose al matrimonio di Umm Kulthum con lo zio del re, un rifiuto che Umm Kulthum prese particolarmente male e la fece allontanare molto dalla famiglia reale e da tutta quella situazione politica lì, e anzi la fece avvicinarsi a delle cause più popolari, come questa vicenda di una legione egiziana che era intrappolata a Fallujah durante la guerra arabo-israeliana del 48, perché avevano cantato una particolare canzone sua di Umm Kulthum, e loro erano rimasti intrappolati lì, quindi lei si è mossa per risolvere questa situazione militare, e tra l'altro tra queste persone intrappolate c'era Gamal Abdel Nasser, che è stato, insomma, ha condotto poi la rivoluzione bloodless, senza sangue, del 52, che ha fatto l'Egitto che conosciamo. Che dire, resta poco da dire, perché poi, insomma, se ne potrebbero dire tantissime davvero su Umm Kulthum, che rappresenta un pezzo fondamentale della cultura musicale del mondo arabo, ma soprattutto del Mediterraneo arabo. Sì, questo c'era a proposito dell'inno nazionale. Uno dei suoi pezzi, che si chiama Wallahi Zaman Ya Silai, che si traduce con "è passato molto tempo" o "arma mia", che è abbastanza militante, fu adottata come inno nazionale egiziano dal 60 al 79, prima di essere sostituita da un altro pezzo di Umm Kulthum, che è più come si può dire, più moderata, più delicata, che si chiama Biladi, Biladi, Biladi, ed è tuttora l'inno nazionale brasiliano. Noi andiamo a sentire questo pezzo molto lungo. Io volevo dire l'ultimo piccolissimo fun facts riguardo Umm Kulthum, ovvero il primo che ho letto, che mi ricordo, riguardava la sua morte, che certo. E per far capire anche quanto come il popolo ci tenesse a lei e quanto fosse rispettata, alla sua morte la salma è stata trasportata da persona a persona, da spalla a spalla. Cioè, se la sono rubata proprio. Se la sono rubata da 3 milioni di egiziani per tutto il Cairo. Quindi c'è proprio una sorta di venerazione veramente, veramente grande e di rispetto. E questo rappresentava Umm Kulthum per gli egiziani all'epoca. Noi andiamo a sentire questo pezzo molto lungo, dopo rientreremo, lo faremo andare avanti in sottofondo. Umm Kulthum, la sua voce, la sua musica, questo di nuovo, episodio numero 4, Battito Madre, da Ex Alge, Milano. نسيت ليالي وأيامه نسيت النوم وأحلامه نسيت ليالي Queen Umm Kulthum con questo pezzo che si chiama Baedannak, che dura 38 minuti, la facciamo andare avanti in sottofondo, ci godiamo questo suo canto bellissimo e proseguiamo, e anzi terminiamo il nostro viaggio verso la sponda più orientale del Mediterraneo, arrivando sulla Palestina, un posto che da molti decenni in realtà, però soprattutto ultimamente, negli ultimi mesi, è davvero al centro delle notizie di tutto il mondo, perché stanno succedendo delle cose davvero, davvero molto brutte. E noi, senza parlare direttamente di politica, vogliamo comunque essere politici parlando di musica popolare palestinese. Come una delle culture che stanno nel Mediterraneo, vicine a noi, queste cose non stanno succedendo distanti, ma molto molto vicine, anche a livello sia bene geografico, ma anche culturale. Noi abbiamo davvero molto molto in comune con queste popolazioni che oggi e da mesi e da anni stanno soffrendo moltissimo. Però ecco, musica popolare palestinese, andiamo di nuovo agli inizi del 1900, del XX secolo, quando gli arabi palestinesi vivevano ancora in relativa pace in città e in zone rurali all'inizio dell'industrializzazione di quelle zone, o prima ancora come agricoltori e nomadi. C'erano gli agricoltori che cantavano coli, una varietà, leggiamo, di canti di lavoro. E quindi qua torniamo alla fine alla tradizione musicale più afroamericana, cioè il blues, la work song. Le stesse cose, questi arabi palestinesi a fine 19, inizio 20 secolo raccoglievano olive per fare olio, ad esempio, e cantavano canzoni di lavoro. Ma c'era anche una figura che è simile al nostro cantastorie, simile allo Gnawi, se vogliamo, simile al griot dell'Africa occidentale, che è quella appunto di questo musicista itinerante che si chiamava Zajalin, che aveva queste storie, questi canti a tema epico. Ovviamente, come detto già prima, per queste musiche popolari di tradizione araba, islamica, musulmana, ci sono molti canti che sono tipicamente legati, ad esempio, a matrimoni o a particolari festività, di nuovo l'inizio del Ramadan, la fine del Ramadan, lo spezzo del digiuno durante il mese del Ramadan. Abbiamo detto per la Gnaw, ad esempio, rituali di curamento e purificazione. Così era la Palestina, diciamo, prima della Nabka, cioè prima del 48, ma in realtà prima ancora. E ovviamente dopo quel fatto là, dopo, vabbè, insomma, dopo l'inizio della colonizzazione massiccia di quei territori da parte prima di sostanzialmente gli inglesi e poi di Israele, ovviamente la canzone popolare palestinese è diventata sempre più politica e è diventato quasi impossibile trovare degli artisti, dei cantanti e delle cantanti palestinesi che non parlino di liberazione, nazionalismo e temi a loro cari e quindi cari anche a noi, perché insomma, l'abbiamo detto più e più volte, la musica come espressione culturale di un popolo, di un insieme di persone, ovviamente non può prescindere da quello che succede attorno a questo popolo, a questo insieme di persone. Per cui oggi la canzone popolare palestinese, in tutte le forme che ha preso, perché poi ovviamente si è secolarizzata, noi andremo a sentirlo molto, insomma, tra pochissimo, è davvero molto molto intrisa di temi politici, insomma, come potrebbe non esserlo? Bando alle ciance, direi, vero Coli? Perché adesso andiamo a sentirci questo pezzo che stacca nettamente anche proprio in termini di cronologici, perché è un pezzo del 2020, e anche in termini di suono, perché abbiamo detto è stata molto ibridata, questa è una cosa hip hop contemporanea e drill in arabo di un artista palestinese che si chiama Fawzi ed è anche molto molto grosso e conosciuto. E andiamo direttamente a sentirlo e poi rientreremo con un'altra chiacchiera di conclusione di questo talk show. Andiamo a cena tutti insieme palestinese e poi balliamo. E arriva Fawzi at the Microphone Center. Questo è sempre Ex Alge, episodio 4 Mediterranea. Eccoci qua. وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوار كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وين حانت اللحظة لاحظ أفعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض من ألف كتاب مش راف بقولك مش حاسب حساب مش شايفك كلك كلك شفاف تقدرش بشغلك كلك بتخاف طب كربي شوي بدربي عيونها تقطع بقلبي محلي ومناش بالغربي محلي ما كملش بدربي جرب بحطي عاليوم يا وردي فيش صوت لجيبي خرخش بنردي يد الواقع اسود بخيالك وردي نحلق لفوق وعسى معهم غردي يلا بسمع عني مش هان بحرك صدري خيالي يدمان واحد يطلو ديلك اثنين صبح صبح مسي زهقان ضلك اطلع روح نفس الموال ولا كتب دون يبقى العنوان نقلب دنيا كلها فلتان اللي ببين بايع ما يبان ها طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وين حانت اللحظة لاحظ أفعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض من ألف كتاب مش راف بقولك مش حاسب حساب مش شايفك كلك كلك شفاف تقدرش بشغلك كلك بتخاف مش راب اضطراب شبرح غاد انطراد تاكدعك وافتراض اللي بظهره يلبي الغراض وقف غيل مش رابط مراض اللي كان قلبه طيب انقراض خلي بعد ما وقع بواقع انفراد وانسرق مع حصاد خلي متعود عادي مع طراد خلي متعود عادي سلينا ها مطط حيا مفلينا لما طلعنا وعينا وهيجينا ولسه عقلي خسف بزينا ولسه نكمل عادي ما نسينا وهسه طنش بكره تهنينا وبكره تصير منا وفينا ها سالك بخت السيره مطط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وين حانت اللحظة لاحظ أفعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض من ألف كتاب مش راف بقولك مش حاسب حساب مش شايفك كلك كلك شفاف تقدرش بشغلك كلك بتخاف E questo era Fawzi direttamente dalla Palestina. In realtà mi sono sbagliato, non era drill, ma mi sono semplicemente confuso perché eravamo indecisi su questo pezzo di chiusura, se suonarci un drillone oppure quest'altra cosa, e abbiamo deciso per quest'altra cosa. Ebbene, Coli, noi abbiamo finito la nostra parte di talk Abbiamo finito i pezzi che ci erano suonati noi, possiamo entrare, perché noi sì, l'abbiamo accennato, perché poi a fine cena, adesso ce ne acceneremo tutti insieme, a fine cena ci sono due cari amici che in arte si chiamano Baba e Ganush, che ci tengono compagnia con dei bei dischi dai loro box, dalla loro collezione, e con cui abbiamo adesso il grande piacere di fare due chiacchiere in diretta su Radio Exalge. Ragazzi, intanto grazie di essere qui e benvenuti. Apriamo il microfono. Ciao ragazzi. Sì, benvenuti. Eccoci qua. Ciao a tutti. In arte Baba and Ganush, nella vita Cesare e Nicolò. Vi volete presentare brevemente intanto come Baba and Ganush, questo progetto? Yes. Nico prende le redini. Ma la questione è che abbiamo capito da subito che ci piaceva un sacco la musica, ma proprio tanto, e le melanzane, mangiare. E c'è stato un incontro mentre io suonavo e lui era tornato dall'Australia, non ci conoscevamo, e insomma siamo finiti a dire vabbè, ma abitiamo vicini, vieni ad ascoltarti i dischi. Lui mi fa, ma io c'ho i dischi. Ah, no, vieni tu ad ascoltarti i dischi. Ah, sì, no, sai, io c'ho i dischi dell'Australia, sì, sono stato un paio d'anni, sono ancora impacchettati e non li ho mai ascoltati. Minchia. Ok, allora tu prendi te stesso, prendi i dischi che non hai mai ascoltato dall'Australia e li porti a casa mia e gli diamo un ascolto. E quindi siamo riusciti ad aprirli uno dopo l'altro e c'era dentro veramente tanta, tanta roba figa, che ho detto ok, combiniamola allora. E sulle scale d'uscita di casa ho detto, secondo me sto progetto è un frullato di melanzane, e quindi siamo andati su con Baba e Ganush a confonderci. Quindi è partito tutto da un box di vinili. Sì. Beh, è così, che da dove arrivava? Scusate, avete detto Australia, ma magari aveva anche delle origini. Beh, soprattutto comunque, cioè, il mio box non era così ricco come quelli di Nico comunque. Sì, il miscuglio sta proprio sia nel Baba Ganush, ma anche nella geografia, come diceva, cioè ci troviamo nella stessa parte di mondo, che è grande, quindi diciamo che sicuramente un quartiere di Milano dall'altro non cambia nulla. E è comunque lo stesso lato del mondo. Ecco, esatto. Come dicevi anche del Mediterraneo, che è anche un riferimento dei collegamenti geografici che avvicina cose anche molto lontane, no? Cioè il mare che collega le coste, cioè sono tutto uno alla fine. E anche Baba Ganush sicuramente nella nostra subconsci c'è un ideale, ha giocato su queste, sì, su queste idee di etnia, di ricerca etnologica. Quindi comunque anche quello che vi piace suonare e ascoltare, cioè immagino non facciate una grande distinzione, però vi siete comunque, quando ho chiesto tipo a Viola chi potrei chiamare per fare questa puntata sul Mediterraneo, lei mi ha detto subito chiama Baba Ganush. E quindi cioè voi vi ritrovate con questa musica, con questa cioè avete un po' di appartenenza in questo senso? Ci si prova sicuramente, ci si prova. Però sì, la ricerca alle origini, ma anche una ricerca alla novità, all'esperimentazione. Comunque lo sperimentale lo tocchiamo, lo abbiamo molto a cuore, questo ambiente di sperimentazione, come poi mischiare anche la primitività delle origini della musica, della cultura che ci appartiene, e che comunque riconoscerla nella cultura anche più lontane, che ci sono tante similitudini. E niente, comunque è tutto un mischione. Sì, come sempre, parlando. Certo, non è che. Allora, a proposito di ricerca e di Mediterraneo, io suonerei il primo pezzo che ci avete portato, che si intitola Processione sul mare di Tony Esposito. Nico, vuoi introdurlo? Beh, Tony, come se fosse amico mio, tu però il suo disco è firmato dalla sua penna, è stato un percussionista fantastico e lo è tuttora, nel senso che è ancora in vita, ho scoperto. fortunatamente, e percussionista proprio fuori dagli schemi. Lui suonava con le pentole, i mestoli, i pezzi di legno, cioè suonava veramente ogni cosa, e dal 74 mi pare ad oggi ha continuato a sfornare dischi su dischi. Insomma, si è anche fatto dei concerti con Pino, chiaramente, ma anche con Don Cherry, cioè, wow. Comunque se l'è girata alla grande. E Processione sul mare, che è il suo secondo disco e che è l'omonimo di questa traccia, per me è un lento avanzamento, tipo camminare sulle acque e andare. E allora andiamo sulle acque del Mediterraneo con Baba Ganoush, questo è Battito Madre, Tony Esposito, Processione sul mare. Thank you. a casa la borsa te la devi fare, e magari suoni anche più di una volta con quella borsa. Cioè abbiamo suonato ieri, anche due giorni, e suoneremo anche domenica, quindi comunque te la devi fare una preselezione. Ma poi quello che effettivamente succederà, noi ci divertiamo a lasciarlo al caso. Sì. Certo, perfetto. In questo in realtà trovate anche un nostro... come si dice, una predisposizione naturale anche di noi gemelli di battito madre, cioè io e mio fratello Coli. Mentre allora andiamo a sentirci la seconda e ultima vostra pick. Esatto, cioè, ho il link che allora facciamo che l'annunci tu, Cesare, dai, fai tutto. Ok, allora partiamo dal nome, anzi prima dall'artista. Non so come si pronuncia correttamente, ma è Jamel Alam. È algerino, è di algerino del 1947, quindi ha prodotto questo brano nel 95 ed è una specie, non è un rock psichedelico, ma è l'influenza algerina di un genere musicale che trasporta, che fa, che è un po' mantritico, ma. Canta in una lingua che è il kabile, che è una lingua mediterranea algerina, quindi sempre legata alla costa, alle connessioni con le altre culture. E niente, si chiama Je voudrais, Vrir, detta in algerino. Andiamo a sentire, torniamo subito in diretta. Ti sei informato sulla pronuncia sì, algerina, davvero? Dove si fa? Perché lo specchio. dai, je voudrais, di Jamel Alam. Torniamo adesso. Enjoy. In diretta su Radio Exalge. I'm نغني الشيخ محمد الحسين على الثلاثة والمستين نغني الشيخ محمد الحسين لي لي لي لي grazie a Babe Ganoush che sono stati con noi e ancora ci terranno compagnia con le buone musiche. Grazie mio fratello gemello Coli. Grazie a te Pierino. Grazie Xalge, grazie alla musica, grazie alla gente che è qui e anche quella che non c'è, perché no. E noi ci diamo appuntamento al prossimo Battito Madre, che sarà in qualche giorno tra metà e fine maggio. E seguiranno comunicazioni e noi ancora vi aspettiamo. Cena palestinese, c'è la bella musica fino a notte. Questo era Battito Madre, grazie, alla prossima. Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fuck. Do. Here goes. www.askthebenny.com